Europa 24. Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz è oggi a Cipro, dove ha incontrato il presidente cipriota Nikos Anastasiades. A unified Cyprus could play as a stabilizing element in the whole region. L'unificazione di Cipro giocherebbe come un elemento di stabilità per tutta la regione, sarebbe un segnale di speranza. Sono qui per esprimere tutto il nostro supporto, sono state le parole di Schulz. Secondo le informazioni dell'agenzia Frontex, non c'è niente che faccia pensare ad un aumento significativo dei flussi di migranti lungo la rotta dalla Libia verso l'Italia. A parlare così la portavoce della Commissione europea per la politica comune di migrazione e asilo, Natasha Berthaud. Berthaud ha confermato invece che c'è stato negli ultimi giorni un netto calo nel numero di arrivi irregolari di migranti in Grecia dalla Turchia, meno di 1000 la settimana scorsa, quando erano in media 2000 al giorno nelle settimane precedenti. Questo è incoraggiante, ha concluso. La Banca d'Inghilterra alza l'allerta per l'eventualità di un'uscita dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit, che, fa sapere la Banca d'Inghilterra, rappresenta il rischio interno più significativo nel breve termine per la stabilità finanziaria. L'istituto centrale ha alzato allo 0,5% da zero il cuscinetto aggiuntivo per il capitale bancario normalmente utilizzato per sostenere il credito nei cicli economici negativi. Spunta intanto anche un dossier sui crimini attribuiti in Gran Bretagna a cittadini di altri paesi europei nella campagna referendaria degli euroscettici in vista del referendum del 23 giugno. Prima di partire per un viaggio che lo vedrà a Bruxelles, Washington e Riyadh, il primo ministro indiano Narendra Modi ha ricordato che l'Unione Europea è un partner commerciale vitale e il maggior destino delle esportazioni indiane. Commentando la sua permanenza domani nella capitale belga, il premier indiano ha manifestato solidarietà con il Belgio per l'orrendo attacco terroristico di cui è stato vittima ed ha sottolineato l'importanza del 13° vertice bilaterale UE-India. Questo vertice, ha sottolineato, farà avanzare il nostro impegno riguardante una ampia gamma di settori. Ed ora parliamo di disabili in Europa. Di loro si parla poco, ma sono ben 70 milioni, il 17% della popolazione europea. I disabili, le cui condizioni variano molto da paese a paese e sui quali i numeri di Eurostat raccontano diverse realtà e diversi gradi di inclusione sociale, dai trasporti al lavoro, dalla formazione all'uso di internet. L'Italia, ad esempio, è in cima ad una non di certo invidiabile classifica per quanto riguarda la mobilità. Più di un disabile su due dichiara infatti di trovare barriere e non va meglio per l'accesso al web, dove siamo penultimi dietro la Romania, o la formazione, in cui facciamo meglio solo di Bulgaria e Grecia, mentre per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro ci piazziamo penultimi, seguiti dalla Grecia. Su questo tema, tra l'altro, nel 2013 arrivò anche la condanna della Corte di Giustizia Europea, che impose al nostro paese di mettersi in riga e adottare opportuni cambiamenti legislativi per sanare la situazione nel mondo del lavoro. Coerente con questo quadro è un altro numero che emerge dal rapporto sulla salute e l'inclusione sociale di Eurostat, quello relativo alla spesa pubblica destinata alla disabilità, che in Italia rappresenta il 3,5%, ben sotto la media europea del 5,9%. La prima voce di spesa pubblica per il nostro paese, sempre secondo Eurostat, sono invece le pensioni, che ne assorbono quasi un terzo, corrispondente al 14% del PIL. Percentuale più alta della media è anche la spesa per la protezione sociale, con il 41,8% a fronte del 40% della media europea. E all'interno della protezione sociale, in Italia si conferma il picco della spesa per la vecchiaia e per la reversibilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.